Letture di Radio 24. In vista delle elezioni del 2013, i partiti tornano a lavorare su una nuova legge elettorale che sostituisca il Porcellum di Calderoli. Ufficialmente per il PDL l'obiettivo è il proporzionale con preferenze e il premio di maggioranza per il partito vincente. Per il PD si deve partire dal doppio turno di collegio, per l'UDC si vada in Parlamento e si decida lì. Inutile cincischiare, commenta Casini. A spingere per una ricomposizione delle diverse posizioni politiche c'è l'instancabile pressione del presidente Giorgio Napolitano. Per i cittadini è spesso faticoso seguire il dibattito sulla legge elettorale. Il tema è ostico. In più, la drammatica congiuntura economica rende complicato appassionarsi a una questione sì centrale, ma che non ha di suo la forza e il fascino per imporsi in cima alle priorità. Eppure, nell'affannosa discussione per superare il famigerato Porcellum, c'è almeno un elemento di chiara lettura e immediata spendibilità. I cittadini hanno voglia di tornare a eleggere i propri rappresentanti, anziché essere costretti a vidimare con una croce scelte integralmente calate dall'alto. Il parlamentare deve essere eletto, non nominato. Non esiste un solo metodo per ridare potere di scelta ai cittadini. Sono possibili più soluzioni e tutte dignitose. Tra queste c'è senz'altro il ritorno al sistema delle preferenze, un metodo chiaro e intellegibile. Ogni lista presenta un elenco di candidati e l'elettore sceglie quali candidati indicare nella scheda. Funziona ancora egregiamente così per i comuni e per le europee. Naturalmente è del tutto legittimo privilegiare altre opzioni, ma è grottesco che molti esponenti politici escludano il ritorno alle preferenze, assumendo nel volto e nelle parole la stessa aria di riprovazione che avrebbero se parlassero di evasione fiscale, criminalità organizzata o violenza minorile. L'argomento principale contro le preferenze è che favoriscono distorsioni, cioè che possono, specie in alcune aree del paese, prestarsi a maneggi, cordate poco trasparenti, compravendite. Questo è vero, ma la contestazione è debole per pretendere che diventi una lapide sulla proposta. Presuppone infatti l'idea che quei centri di potere, siano essi lobby territoriali o criminali, non si mobilitino in presenza di altri meccanismi elettorali. E poi, perché la comunità nazionale dovrebbe orientare le proprie scelte facendosi condizionare da qualche sacca di malaffare o malcostume? Più fondata è, casomai, l'osservazione sul costo delle campagne con le preferenze, ma anche qui sono possibili numerose contromisure. E nemmeno questo è argomento che possa giustificare un niet assoluto. Si trovi pure un altro sistema per ridare scelta ai cittadini, ma si abbia il coraggio di dire che le preferenze sono, più o meno inconsciamente, lo spauracchio di una classe politica che ha disimparato da tempo a raccogliere il consenso sul campo e ad accettare i rischi di una competizione senza paracadute. L'attuale è una leva di politici cresciuta nell'era del leaderismo che tutto copre e tutto ricompensa, dei partiti leggeri a immagine e somiglianza del padre padrone, che orienta il consenso a colpi di strumenti mediatici, utilizzando la massa parlamentare come carne da cannone per i propri scopi e per la lotta interna, ricompensando tutti, quadri e militi ignoti, con elezioni certe e senza fatica. Dalla contesa per le preferenze nascono pure circoli virtuosi. Tornano a contare le capacità di dialogo del candidato, la forza della sua proposta, la credibilità del nome. Con le preferenze, i peones dovrebbero lavorare ventre a terra sul territorio, anziché limitarsi a frequentare assiduamente le stanze della segreteria nazionale per garantirsi la benevolenza del leader. I dirigenti dovrebbero verificare sul campo se hanno davvero il consenso che giustifica le loro cariche. Magari, a misurarsi davvero, si scopre che il giovane e attivo consigliere comunale batte il famoso capogruppo. Magari no. Infine, un'ultima banale annotazione. Chi in questi anni ha presentato giustamente il Porcellum come il male dei mali, dovrebbe partire dall'assunto che le preferenze rappresenterebbero comunque un bel passo avanti e dovrebbe tenere presente che a forza di bocciare ogni sistema che non sia in cima ai propri gusti, si alimenta il fondato sospetto che siano in tanti a sperare in cuor loro che l'Italia si tenga il peggior sistema elettorale dei paesi occidentali. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Stefano Cappellini, Chi ha paura delle preferenze, pubblicato dal Messaggero in edicola martedì 10 luglio.